versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 28 di ottobre, non di novembre, come mi avete scritto qua, vogliono vedere se sono sveglio, ma almeno i mesi me li ricordo. Sono le 16:31 primi in questo secondo, siamo in diretta di sui radio di Milano, di Radio 24, grazie a chi è in ascolto. L'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per proporre temi, ospiti, critiche, osservazioni. Invece vi dico subito il tema di oggi. Oggi parliamo del RAI. Perché lo sfondo ovviamente è la decisione che, sapete, ormai è assunta, presenta nella legge di stabilità, quella che pagheremo tutti il canone in bolletta elettrica, e in più pagheremo il canone, che in realtà è una tassa di possesso, come sapete, con ogni probabilità sarà maggiore la cifra raccolta di quella del 1,7 miliardi che la RAI deve. Il resto se lo prende lo Stato e lo incamera in un fondo dichiarato per la restituzione delle tasse, che non è mai stato utilizzato negli anni da che esiste per questo, ma per coprire altra spesa corrente. Si calcola almeno altri 450 milioni se lo tiene, ma questo teniamolo sullo sfondo. E però teniamolo sullo sfondo perché è una differenza non da poco, visto che questo è quello che ci attende da tra pochi mesi: pagare il canone in bolletta elettrica. Ne abbiamo più volte parlato, ma oggi approfondiamo due notizie, che una è uscita oggi e l'altra ieri, che sono relative alla RAI e che a mio giudizio contribuiscono a una riflessione che io mi aspetto da tutti voi e per la quale vi chiedo un'opinione. Allora, la prima notizia che vi circostanzio subito dopo avervela annunciata è relativa a quello che abbiamo appreso da Yanis Varoufakis. Lo ricordate Varoufakis, il ministro dell'economia greca, spumeggiante protagonista dell'estate quando la Grecia sembrava dire no all'austerità, poi dopo la firma di Tsipras dell'accordo su cui Tsipras ha rivinto le elezioni, Varoufakis lascia il governo e diventa una delle star dei circuiti, dei dibattiti in tutto il mondo, televisivi eccetera eccetera. Allora, Yanis Varoufakis, poiché è stato criticato per questa sua vita da globetrotter e molti lo hanno accusato di prendere un mucchio di soldi, ha pubblicato la lista di tutte le circostanze in cui ha partecipato nel mondo a eventi a cui era invitato, e ha fatto un'autodichiarazione di trasparenza di quanti denari avesse incassato per chi lo pagava, lo chiamava pagamento, e di chi gli pagava i biglietti aerei, i trasferimenti, dichiarando anche in che classe aerea viaggiava. Allora, sono la bellezza tra fine settembre e oggi 25 appuntamenti in giro per l'Europa, ma anche in Asia, dalla Francia alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Spagna, al Portogallo eccetera eccetera. E abbiamo appreso da questa, secondo me, apprezzabile autodichiarazione di trasparenza di Yanis Varoufakis che mentre nella totalità, praticamente, tranne un paio di eccezioni, gli hanno sempre pagato il biglietto ed è praticamente sempre stato in classe economica, in rarissime occasioni gli hanno offerto anche una fee, cioè una quota, diciamo così, oltre al rimborso spese, di retribuzione, per così dire, di compenso professionale per questi, interventi. Non è capitato quasi mai, tranne che in rarissime occasioni. Per esempio, lo hanno invitato a Mosca il 1° di ottobre e lo hanno pagato, oltre a pagargli il viaggio in classe economy, gli hanno dato 1.000 euro. Lo hanno invitato a Berlino il 6 ottobre per intervenire in un teatro a un dibattito su un piano alternativo contro l'austerità, gli hanno dato 500 euro. Lo hanno invitato a Barcellona il 15 di ottobre, anche qui viaggio in economia aereo, e gli hanno dato 1.700 euro. Quando in Gran Bretagna ha partecipato a una delle più ascoltate trasmissioni politiche della BBC, il Question Time, si intitola così la trasmissione, il 24 di settembre gli hanno pagato sì il biglietto aereo in economy, ma non gli hanno dato un euro. Invece apprendiamo da questa lista che quando è stato invitato a partecipare, ed ha partecipato al programma Che Tempo Che Fa, quindi Fabio Fazio, Rai 3, il 27 settembre del 2015, apprendiamo che è l'unico viaggio in cui gli hanno pagato la prima classe in aereo. E vabbè, e fin qui ci stiamo. Ma il punto è che apprendiamo che la RAI gli ha pure dato un compenso di 24.000 euro netti, perché lui precisa anche che sono pagate le tasse 24.000 euro. Ed è da questo punto di vista praticamente l'eccezione di tutta la lista. Allora, la RAI ha dato 24.000 euro a Varoufakis, l'Huffington Post, diretto da Lucia Annunziata, stamattina ha dato la notizia dicendo: lo abbiamo pagato più di 1.000 euro al minuto per averlo ospite a Radio Rai. La BBC zero e niente prima classe, e noi invece prima classe e 24.000 euro. Voi direte: vabbè, che notizia è? No, questa notizia anche teniamola sullo sfondo, perché io vi chiedo se siete d'accordo con questa politica dei prezzi pagati dalla Rai, visto che gli altri non le pagano. Invece ricordatevi che la Rai ci ha confermato che non ci darà l'evidenza pubblica e la trasparenza di quanto paga le sue star per motivi di privacy, quindi noi non continueremo a non saperlo pur pagando il canone in bolletta. Ricordatevi che la Rai rifiuta di darci le indicazioni nominativi per dirigenti e funzionari delle rispettive retribuzioni, ancora una volta per privacy. Si limita a dire quanti sono a guadagnare da X a Y e quanti sono a guadagnare da Y a Z, ma per motivi di privacy non ci dice nulla. Allora, questa è la prima notizia. La seconda notizia è relativa invece a un'indagine che è in corso, condotta dalla Procura di Roma e in particolare dal Pubblico Ministero Paolo Ielo, un'indagine che ha gli appalti della RAI, non solo per la RAI, c'è anche un troncone che poi riguarda la 7, Infront, che è magna pars del calcio italiano, come sa chi è tifoso e ci ascolta, però che riguarda gli appalti della RAI. I giornali ne hanno dato notizia senza, per così dire, troppa evidenza, e allora ho deciso di farvi raccontare di preciso di che cosa si tratta a questi microfoni da uno dei giornalisti che ne ha scritto sul Fatto Quotidiano, firmando un lungo pezzo insieme a Valeria Pacelli. Lui è Carlo Tecce. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Carlo. Ciao, grazie a voi, Oscar. Ciao, buon pomeriggio. Allora, dobbiamo ricostruire questa vicenda per chi non ne sa nulla ed è in ascolto. Sì. Allora, questa indagine quando parte, su cosa verte e che cosa hanno acquisito fino a questo momento i magistrati? Quali sono le ipotesi? Allora, l'ipotesi è che diversi dipendenti della RAI e anche delle altre società che citavi prima tu sarebbero stati corrotti da una società di tale Biancifiori, che poi ad aprile è stato anche arrestato per un'altra vicenda però, e comunque quindi il PM ha deciso di allargare il focus e il suo raggio d'azione su tutti gli ultimi appalti della RAI sbagliati già dall'audit interna, che è un po' insomma la commissione d'inchiesta interna. Quello che noi ieri abbiamo scritto, e si riferisce al pezzo di ieri, è che c'è un buco di un anno che preoccupa molto il nuovo direttore generale Campoallotto, perché nell'ultimo anno la RAI, nonostante 37 dossier aperti, chiusi e sequestrati dalla finanza per i magistrati, la RAI per un anno ha smesso di indagare, come se all'improvviso si fosse risolto tutto, perché ti ascoltavo dall'inizio e arrivo a Varoufakis, anche se vogliamo fare un discorso onnicomprensivo, il RAI è tutto fuori controllo. Esatto. Sono fuori controllo i gettoni di presenza per le star nei talk show, sono fuori controllo gli appalti, sono fuori controllo gli stipendi. Noi abbiamo scritto che Campoallotto e Maggioni, che senz'altro sono due manager importanti, più Campoallotto che Maggioni, che per la verità non hanno mai avuto questo tipo di esperienza, sono a capo di un'azienda molto grande, oltre 13.000 dipendenti, quasi 3 miliardi di fatturato, però con il trucchetto dell'emissione dei bond, tu sai benissimo cosa vuol dire, sono riusciti a sfondare il tetto dei 240.000 euro, un tetto talmente finto che è facilmente aggirabile. Esatto. Allora, Il punto è che questo buco significa che, in altre parole, molto di ciò che interessa ai magistrati non era stato oggetto, o perlomeno le carte non ci sono, dell'organo di vigilanza interna amministrativo, quello che dicevi tu, l'audit. L'ipotesi, da quello che ho capito, è che funzionari e dirigenti della RAI accettassero tangenti per affidare le scenografie di questa o quella trasmissione di punta, sono usciti anche i nomi delle trasmissioni punte della RAI, appunto a questa o quella società. Però poi voi avete scritto che ci sono anche altre ipotesi su cui i magistrati indagano, cioè che magari gli appalti fossero dirette a società o attraverso filtri oppure anche senza filtri direttamente riconducibili a dipendenti, dirigenti e funzionari della RAI. Esatto, questo è un sospetto. Tra l'altro le trasmissioni coinvolte sono importanti e c'è anche un evento importantissimo per il palinsesto, lo spettacolo stagionale della RAI, che è il festival di Sanremo. Questo Sanremo in questi giorni, tra i dipendenti del comune e gli appalti truccati al festival di Sanremo, proprio Sanremo non porta bene. Però ecco, anche in quel caso si trattava appunto di appalti per realizzare il festival. Sì, esatto. Ma c'era anche un altro problema per la RAI, per i dirigenti della RAI. Diciamo che l'inchiesta riguarda un arco di tempo che va dal 2011 al 2013, no? Quindi diciamo tutti i due anni non sono toccati. Ma c'è un'altra questione che hanno sollevato gli stessi magistrati. Un fascicolo interno che riguarda appunto la società di Biancifiori è stato chiuso nella metà dell'anno del 2013, ma fino all'inizio del 2015 i magistrati non ne hanno mai saputo nulla. Quindi la domanda è: perché i dirigenti della RAI, quelli che hanno fatto l'audit o la direzione generale, non hanno pensato di inviare quel materiale ai magistrati, che tra l'altro hanno poi iniziato l'inchiesta? Seconda domanda, loro si giustificano semplicemente dicendo: l'abbiamo dato al consigliere delegato della Corte dei Conti che sta lì, che partecipa al Consiglio di Amministrazione, e perché non si sono assicurati che questo poi desse il materiale ai magistrati, o perché questo poi ha pensato che non fosse importante da informare i magistrati? Insomma, c'è il sospetto e la paura in RAI che chi agiva prima in combutta con questa società sia ancora lì ad agire, chi sta facendo favori a chi, e comunque nei piani alti dello sciagurato e disgraziato come Sanremo palazzo di Viale Mazzini. Allora ricordiamo a chi ascolta che la RAI, quando scoppia il bubone di Mafia Capitale, tra l'altro, esce fuori, e quindi non può che interessare i magistrati anche la vicenda, che i suoi 8 punti di ristoro interno sono affidati a un imprenditore colluso con Carminati ed espressione di Mafia Capitale, tutti i punti di ristoro interno dell'azienda. Quindi non è che un'azienda, quando arriva, ben prima che arrivi Campo dell'Orto e la Maggioni, cioè il nuovo amministratore delegato, ex direttore generale, ma con la riforma diventa amministratore delegato con i pieni poteri, e la presidente Maggioni, l'azienda, quindi Gubitosi, quando Gubitosi la guidava, avrebbe dovuto stare con le antenne ben ritte rispetto al fatto che la procura già aveva elementi di un certo peso per accendere tutti i fari. I giornali hanno anche scritto però che poi i magistrati si imbattono, Carlo, in una gola profonda, cioè che ci sia un indagato, perché ci sono 44 indagati, da quello che sappiamo, tra dirigenti RAI, la 7, Infrot e Presidenza del Consiglio, e uno di questi si mette a collaborare al punto tale da dare una specie di la chiave per decrittare quello che non era chiaro nel materiale elettronico che sequestravano in RAI. Esatto, e questo è il capitolo successivo rispetto a quello dei 37 dossier acquisiti dai magistrati, e il fatto è che questa gola profonda, che evidentemente non ha nessuna protezione, è stata minacciata, e questo potrebbe anche portarla a desistere, non lo so, comunque creato un problema anche ai magistrati, anche perché, come notavi tu all'inizio, e questo mi ha colpito, sono d'accordo con te, la vicenda un po' sui giornali scivolata qualche volta, sì, un po' più interessante. Non riesco a capire bene perché, potrei essere malizioso, tu lo sei, che ti faccio no, tu di la tua, che io dico subito anche la mia. La tua no, qual è? Cioè, nel senso che questo è un sistema talmente vasto ed è messo in discussione, anzi è indagato un sistema di gestione di tutto ciò che noi vediamo in televisione, ma non conosciamo le facce, le società, le mani che operano e fanno questi lavori, e che forse coinvolge una platea talmente ampia di persone che a qualcuno magari conviene tenerla bassa questa notizia, non ai giornali, dico, per carità, ma nel senso a tutto il sistema dell'informazione è meglio che se ne parla poco, perché comunque riguarda sono completamente d'accordo con te, perché secondo me questa è una prassi che riguarda la RAI, perché adesso sono la RAI, ma è una prassi di sistema. Aggiungo, per chi ci ascolta, che il coinvolgimento, il collegamento con la vicenda Infront e sulle indagini di Infront, stiamo parlando del pilastro del sistema del calcio, dei diritti del calcio nel nostro paese, diritti televisivi, e del trucco evidente che è avvenuto nell'ultima gara per l'acquisizione e l'attribuzione dei diritti sul campionato di serie A e B, una gara truccata pubblicamente sotto gli occhi di tutti, alcuni lo scrissero subito come il sottoscritto, e ancora un anno dopo si aprono le indagini quando era tutto palese e tutto avvenuto con il timbro dell'antitrust, incredibile a dirsi, cioè una gara la cui aggiudicazione secondo le regole scritte dallo stesso Infront, che era consulente di Lega Calcio, una volta che escono fuori i risultati tutti dicono beh, non si può fare perché premia solo un polo televisivo e naturalmente non quello di Berlusconi. Tutte le squadre, quasi tutte le squadre, le società di calcio vengono rimesse in riga e dicono va bene, riscriviamo, anzi spartiamo a tavolino tra i gruppi televisivi i diritti del calcio. Paradossalmente le società di calcio ci perdono soldi ma dicono che va tutto bene. Allora, questo sistema quindi di chi lavora nelle produzioni televisive, A, B, collegato alla gestione dei diritti del calcio, che è fondamentale per reggere il calcio, ma che collega il sistema dei gruppi televisivi al sistema del calcio, sono due pilastri in cui la politica c'entra fino agli occhi nel nostro paese. Allora, io mi permetto di dire a chi è in ascolto, poi continuiamo a ragionare ancora con Carlo Teccio, ma intanto telefonate. È possibile mai che a noi venga solo chiesto, ed è giusto, io lo dico di no, di pagare il canone che poi è una tassa, che però ex tariffa diventa tassa di possesso e si riannega in una tariffa, quella elettrica, nel mentre su tutte queste vicende cala una pesante coltre di opaca ipocrisia, perché questo è il fatto. Nessun direttore, nessun nome della grande informazione ha detto ma scusate, davvero noi possiamo arrenderci di fronte al fatto che nell'ultimo anno di gestione gubitosi in Rai l'audit dopo l'esplosione di Mafia Capitale aveva deciso di stare con gli occhi chiusi? Ecco, a me sembra un tema di grande rilevanza nazionale. Strade, e torniamo tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di questa notizia, cioè stamattina la RAI l'unica che ha strapagato Varoufakis dandogli la prima classe nel volo, ma questo è colore, però l'ha strapagato, nessuno gli ha dato i soldi, gli ha dato la RAI per averlo ospite di Fabio Fazio, 24.000 euro pagate le tasse, come correttamente informa Varoufakis, e poi di questa indagine di cui Carlo Teccio, che l'ha scritto sul Fatto, la segue per il Fatto Quotidiano, diciamo, si legge un po' poco, non ha scandalizzato molto nella grande informazione italiana. Allora, molti di voi mandano sms che divido in quattro blocchi, ce n'è uno di quelli che un blocco molto nutrito di ascoltatori che dicono, quelli che hanno più bollette in più case, dice pagherò più canoni, spetterà a voi, da quello che abbiamo capito fino a questo momento, fare una autodichiarazione, e attenzione che andate nel penale qualunque cosa poi non corrisponda ai controlli, nel quale dire no, io sono residente, questo è il canone della mia casa di residenza e io pago dunque solo un canone rispetto alle altre abitazioni. Secondo gruppo di mail, un partito di estremo difensore della RAI che ci accusa, me e Carlo, soprattutto me immagino, di essere uomini di Mediaset. Guardate, proprio la cosa non mi riguarda e non mi interessa, mai lavorato per Mediaset, e su Berlusconi ho detto in tempi non sospetti quello che penso. Carlo Teccio lavora per il Fatto Quotidiano, non fanno sconti di sicuro a Mediaset. Noi ci occupiamo di un'informazione che riguarda il servizio pubblico, il soi-disant, per così dire, sedicente servizio pubblico, e quindi pensiamo di fare bene il nostro mestiere, o quantomeno di andare a vedere che cosa succede dentro, come spendono i soldi, perché è così così opaco e perché si innalzano questioni di privacy nel dare l'informazione di come vengono spesi i soldi pubblici che ci vengono chiesti per di più pure nel canone elettrico. Poi c'è un terzo partito di rassegnati, per così dire, e un quarto che spera che questa nuova gestione però faccia pulizia, perché dicono Campo dell'Orto non c'entra con tutto questo e l'ha trovato. Allora sentiamo un paio di telefonate e poi facciamole commentare a Carlo Tecce che è con noi. Cominciamo con Fabio da Rovigo. Fabio, prego. Sì, buonasera a tutti. Ma io volevo dire, ma visto che si sa da anni questo, cioè nessuno rimedia questa cosa che la Rai sperpera i soldi, regala gli ospiti da sempre. E un'altra cosa, il marcio abbiamo capito che c'è, noi della plebe in Rai c'è il marcio, perché ogni mese, ogni sei mesi cambiano direttore generale, cioè dove siamo arrivati qua, ma vogliono giocarci. E poi ti alza anche addirittura il canone, vogliono alzarlo, vogliono abbassarlo, si capisce, hai capito? Quindi mettendo insieme milioni gli salta fuori lo stipendio al nuovo dirigente. In ogni caso il marcio c'è, ma la finanza, come ha detto il signore di prima, non controlla questa cosa o è anche con lui dalla finanza? Cioè fatemi capire. Intanto la procura sta indagando e la finanza c'è andata e ha trovato anche qualcuno dentro che collabora. Devo dare una risposta ad Alberto che scrive dicendo: oggi è il giorno del dato della fiducia ai massimi degli italiani come famiglia e come impresa rispetto al 2007, piantatela di dire solo quelle cose che non va. Guardate, questa Alberto, io ho grande rispetto, certo che è una signora notizia. Se questo significa chiudere gli occhi di fronte a gente che si fa corrompere, becca i soldi di cui non sappiamo lo stipendio, pagati con i soldi di tutti alla RAI, Alberto, io non sono d'accordo, perché è una propaganda da cui non mi faccio proprio prendere, ed è la propaganda di questi tempi che dice che non bisogna parlare delle cose che vanno male. Se ne parla sotto qualunque governo, di qualunque colore, di destra, di sinistra, e credo che dire giornalisti piantatela di fare il vostro mestiere sia una cosa per me che impoverisce tutti, e la mia opinione rispetto alla tua, Alberto. Mauro dalla Spezia, come la pensa? Sì, dottor Giannino, buonasera. Giannino e basta, vai. Niente, io insomma sono parecchi anni che pago il canone della sì. RAI, a malincuore ma lo pago, perché mi sento insomma un cittadino e va bene, okay. Lasciamo perdere certi discorsi. Comunque ecco, dopo questa notizia che lei ha dato di Varoufakis, sì, presa da Bellezza di 4.000 euro, cosa che io non vedo neanche in un anno perché sono pensionato. Sì. Ecco, per quale motivo? Come è giustificato che io pago il canone a questi signori? Mauro, questa domanda che tu fai, alla quale io non ho risposto, sentiamo l'opinione di Carlo Tecce. Perché non possiamo sapere i gettoni delle star per capire se sono proporzionati o meno? Secondo te, qual è la ragione? L'ipocrisia, la paura di farsi scoprire, di far scoprire queste cose, perché l'abbiamo saputo da Varoufakis. Il problema non sono neanche i 24.000 euro, certo, che la RAI ha dato all'ex ministro. Il problema è che la BBC ha avuto la stessa intervista e gli ha pagato un biglietto in economy, io dico male, per il viaggio a Londra. Il problema è che la RAI è pur sempre, seppur ammorfito, l'Eldorado, dove si hanno appalti facili, consulenze facili. Quanti giornalisti, quanti nostri colleghi hanno rapporti con la RAI, contrattini, eccetera? Lo so. Carlo, io vi ringrazio per quello che fate e mi scuso con gli ascoltatori che credono che sia propaganda, perché questo è il giornalismo che non guarda in faccia ma tenta di parlare delle carte che di solito il potere non vi vuole far vedere, sentire, ascoltare, perché vi chiede solo i soldi. Continuate con la 24, appuntamento alle 8:15 domani con Alessandro Milan, come sempre attenti noi due, nel pomeriggio per chi vuole la versione di Oscar anche domani pomeriggio.